Thank you. angeliche soavi che il tuo divino amor ti fa godere. Non pensi a quel che sopra l'alte sfere godimento infinito prova il tuo Dio, quando il suo dolce invito al fonte di clemenza viene accolto e gradito dal peccator che torna penitenza. Thank you. Dijon. Oh, Amen.